via, camamburile de 60 ani che stan sul dondolo della pensione. Ianet de com'era, se ricorda come l'era, adesso biciclette, bubuzela e calzuzucchi anche a tre malnai. Ianet de com'era, se ricorda che James Brown giuga il carcio al bagno Riviera e gli antichi le sempre giù. Cartini è una bibita dei quattro culù, abbronzati e tatuati, ien pirati, vegli de Vares, la pantera, conna nera, canottiera, cameriera, me fel tu anche senza i gettoni, ma le che ruma per cambiate il bicer. Santo Canis la spiaggia coi mutan della Billabong, galartrite il gal riporto, parti spermo bracendo il pedalò, e i dayaki fuccia la cazzetta, cammega a tempesta e a telco, i lasse la spada su tal'ombrello, fanno più danni con l'iPhone. Ianez de com'era, le vedi dall'oltre sera, sé que la perla della buon Mariana Tess la me paro usas. I arets de com'era, tutta sua mo come l'era, ho vedu che se rifada in te la mia pudu rifasse il cu. La sirena l'incazzata che pomea giuga il ballon, pulenta e cuba libre per i granchi in processione, comincia l'happy hour, la tigre di Malesia, finis all'usteria col riso in bianco e la magnesia, ustionati pirati senza protezione, barracudas con sui Ray-Ban che giugen a ping pong, santo can che il fusa dentro in pizzeria, e il fusa è il canta Romagna mia. Ianez de com'era, se ricorda come l'era, adesso biciclette, bubuzela e calzuzucchi anche a tre malnai. Ianez de com'era, se ricorda del colonnello Fitzgerald, lo vedo in sola curiera che il navari mi ne avede i delfini. Oh, buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Terra di, la terra di cachi, ragazzi. Buonasera. Buon caco a tutti. Come state? Tutto chi bene? Era questo turno? No, cioè un attimo di spostamento c'è stato, di microfono. Così abbiamo perso un quarto d'ora a prepararci, però non si è fatto un cavolo. Non si è fatto niente. Siamo raccontati. Cavolo va bene. Cavolo si può dire. Cetriolo no, perché c'è il virus. C'è l'allusione, c'è il più virus. Che altro. Allora Gianluca, come stai? Tutto bene? Sì, sì. Hai preparato la console? Sì, sì, se suavo. Chi è questo ragazzo che ha portato con te? Che lui è un grande. Dove l'hai trovato? Nella strada. Non so se lo conoscete. Sotto casa stava lì che chiedeva l'elemosina e lui ha detto basta, ho messo peggio di te. Il famoso proverbio cinese che dice non regalare un pesce a chi ha fame, ma portalo alla radio. E quindi ascolta, ma chi è questo Papa Massimo? Ma Massimo, chi sei? No, c'è Papa. Sono uno che era sotto casa tua. No, sarà stata la bestemmia dell'altra volta, ci hanno mandato il Papa. Però Papa Massi. No, perché ci hanno accusato di essere dei bestemmiatori. Ho saputo questa storia. Che non è vera. Pericolosa. Ma io in casa, effettivamente. Io lo querelo adesso. Allora, Papa Massi, benvenuto in questo spazio siderale radiofonico. E niente, dopo parleremo un po' del nuovo disco dei Working Whites. I was alive. Che è in uscita, giusto? Sì, sì, è già disponibile, uscito, già uscito. Quando è uscito? È uscito già da 2 o 3 giorni, insomma, ora. Vabbè, siamo sempre la prossima settimana mesi, dopo l'ultimo ponte sarà già nei negozi. L'ultimo ponte è quello. Ma noi non ce l'ha portato. Però. Dopo no, non ce l'ho neanche io. Non ce l'ha portato. Non ce l'ho. Non ce l'ha neanche lui. Come va a portarlo? Noi veniamo forniti di una copia a testa per i musicisti. Vabbè, masterizzacelo. Ma infatti ve l'ho portato masterizzato. Ah, grande. Ci accontentiamo anche di quello. A noi ci basta l'essenza. Ascolta, ma l'ultimo ponte è quello tipo prima di Corsa Italia. Ma chi se ne frega? Dopo Corsa Italia o il ponte della Fortezza? Il ponte. Dopo l'ultimo ponte dell'anno, dico. Ah, pensavo l'ultimo ponte di ponte di mezzo. Che simpatico umorista. Non è che è passato Bettarini dagli studi, no? Bettarini dagli studi ha messo il calmante. No, assolutamente no. Nella però è passato questo messaggio qui di Phil Collins che ha detto che oggi è giugno. Phil Collins. amplifica il suono che nasce da dentro. È il posto perfetto, per questo ti aspetto sopra ad un palco per darti l'affetto. Ed ecco che scelgo un messaggio diretto che scuote coscienze soffite nel petto. E poi scommetto e rifletto veloce, rigetto chi predica il vento, chi dorme sta a letto. Se vado a braccetto con ogni soggetto, dalla casa del popolo al palazzetto. Veloce la lirica, chiaro il concetto, non solo il cervello è strumento perfetto. Ci vuole sudore, emozione d'affetto, almeno un difetto che ti distingua come un dialetto. Il mio dialetto, il tuo dialetto. Pensata, ecco. È la solita storia del musicista con la donna, insomma. Vabbè, a parte la tematica, devo dire che è un ritmo molto, molto fresco, molto estivo, così, sì, sì. Cioè, già proiettato verso la tormentone, la vedo già tormentone dell'estate. Vorrei, ma non vorrei. Vorrei, sei basito, c'hai una faccia, sembri una statua di cera. C'era. No, in realtà stiamo ascoltando anche il terzo pezzo, no? Ah, già direttamente. Già direttamente. Sì, sì, sì. Lui va già, così già sta a dire. No, allora devi mettere la traccia. No, io voglio sapere. Abbiamo fatto pure la playlist. Voglio sapere tu quando fai musica, cosa pensi? Ma perché non gliel'hai chiesto stamattina? Penso a tutti quegli altri che fanno musica insieme a me, perché da solo non posso pensare, è difficile. Ha bisogno della relazione. Ascolta, quando scrivi i brani, da dove trovi l'ispirazione? Da tutto quello che accade ogni giorno intorno. Parla serio, guarda, non è che per di questo. Ma scusa, ma mi vedete tutti i giorni? Ma te quando ti sei preparato le domande? Scusa, perché fa delle domande sensate veramente. La prima volta. Un'intervista seria questa. Un'intervista seria, quindi approfittare. Allora, dicevi che ai fiati avete una sezione di tutto rispetto, devo dire. Cioè, dal vivo si suonano appunto con i sintetizzatori e tastiere, però abbiamo preso. Dove una vai, sezione Marco? Fiati. Marco? Tra gli altri c'è anche la collaborazione, sì, di Roy Paci. Avvicina. Che è tanto di cappello. Roy Paci, insomma, numero uno per quanto riguarda. Ma non parlare sempre. Non parlo sempre. Parla tu, Massimo. Scusa. Niente, questo è uno dei risultati. È arrivato Marco! Sentito. È arrivato Marco. Ecco, ci sta guardando. Ma stava numero uno. Stava parlando. La leggenda del rock. Sì, ci sta guardando come se fosse anche lui una statua di cera. Io mi sto preoccupando, non lo so. Come si intitola il disco, Massimo? Il disco si intitola Italia solo andata. Italia solo andata. Come mai questo titolo così? Più o meno tutte le cose che... un po' il concetto del viaggio, del viaggiare in Italia, tutto quello che succede, tutto quello che... un po' solo andata sembra un po', come per dire, c'è anche una connotazione negativa, no? Cioè, sì, in effetti si... un po' ferma su se stessa, insomma, solo andata. Questo destino che non sappiamo come va, però l'Italia va. Adesso sembra che sia rinata, non si sa bene. Rinata con i Walking Vibes, questo disco che promette molto bene. Io direi di andare avanti con la musica. Ecco, prima di mandare la traccia, così la presento un attimo. No, assolutamente no. Io manderei una traccia per spezzare questo ritmo blando. Blando. e poi ritorniamo sulle tue tracce. Marlon, ce ne parlerai. Ah, ok. Allora, filologico. Allora mi concentro già da ora. Vai. Okay, c'ho già vai. Delle domande pronte. Ok. Tanto buonasera anche Alessia e Marco. Eh? Ciao. Ciao. Allora, ma sono oh, io, allora, il direttore generale. Ci abbiamo, working vibes, ci abbiamo Marco Maltone e tu mi metti Jimmy Terno. Scusa, ci abbiamo Carlo, si canta, suona, balla. Ascolta Bernardo, non puoi parlare in continuazione tu, che parlare in continuazione. La radio è mia, io faccio quello che voglio. Non questo programma è mio, la radio è mia. E Marco, è mio. Marco, siamo Marco e Sara. Marco è mio. Vorremmo sapere di cosa parlate mentre parla Bernardo. Vi distraete, accidenti. No, comunque devo dire che è una serata molto animata. Non c'è un'anima, qui sono da solo in studio. Siamo. Allora, continua questa intervista, dai. Allora. Sul pullman l'avete preparata? Scusa. Sì, no, sul pullulare del pullman abbiamo preparato questa intervista. E sono venuti col pullman come poveri messicani. Io non c'ero sul pullman. No, quando eri sul pullman con Gianluca. Che e cosa vorresti dire? Scusa, che sei colombiana. Sì. Io ero sul tetto. Praticamente. Ti ha lasciato solo. Io ero sul tetto di una ragazza. Allora, io volevo fare una domanda a Massimo e chiedergli. Che nesso ha il suo modo di... Ma che cazzo fa? Che succede? Che è successo, scusa? Ti sei innamorato del microfono? È un microfono, sì. In effetti. Dicevo, la ploma che deve avere un musicista. La ploma, non so come si dice. Allora, sì, vabbè. Ecco. Vai al sodo. Voglio andare al sodo. Fai delle domande. La domanda qual è? La musicalità che c'è nel tuo... Ma parliamo... No, rompono un po' il cazzo questi. Voglio dire, no. Mi devo concentrare a fare queste domande o no? Allora, voglio capire... Accingo accanto a te, Accingici. È impossibile. È impossibile fare un'intervista decente al nostro Paolo Amato. Parlaci del tuo disco, Massimo. Ecco, come è nato. È nato attraverso una macchina che li stampa. Bravo. Ecco, visto. Fai delle domande del cazzo, ti danno risposte del cazzo. Allora, dovrebbero darmi una risposta sperma a una domanda del cazzo. Effettivamente sì. Effettivamente. Io direi, puoi mandare già la prossima data. Aspettiamo che dimostra che Working Vibes non fanno solo reggae. Diciamo okay. Così, guarda che frase preparata proprio. Proprio. Sei contento? Ascoltiamo l'ottava traccia, si intitola Pirati Italiani. Ok. Questa nave non si muove più e cambia il vento ma non cambi tu. Sorride brinda il capitano da lassù per quelli come noi dimenticati in un deserto blu. All'arremaggio siamo i nuovi pirati, combattiamo contro uomini omologati. Quelli che usano i soldi come coltelli affilati per uccidere le ciurme degli altri stati. Noi non siamo rossi, noi non siamo neri, non siamo corsari, siamo incazzati neri. Contrabbandiamo idee per riprenderci denari, rubati ai nostri padri, illusi e poi derisi. Scutati ed umiliati, buttati in pasta a squali, che al posto delle pinne avevano cambiati. Da falsi condottieri, grassi un po' sudati, convinti che i pirati non sarebbero arrivati. Siamo tutti sulla stessa barca noi pirati, con le spade di carta. Se il tuo coraggio ha un prezzo quanto pensi che valga, qui non conta chi sei, se non indossi una maschera. Siamo tutti e sulla stessa barca noi pirati, con le spade di carta. Se il tuo coraggio ha un prezzo quanto pensi che valga, qui non conta chi sei, se non indossi una maschera. Gusto, vuoi fare delle tendenze, noi siamo fuori posto. Ma se guardi all'orizzonte, adesso scorgi un mostro che ha sete di giustizia a qualsiasi costo. Mentre noi su questa bara che galleggia solitaria arriveremo dritti alle cascate del Niagara. Così precipiteremo a mezz'aria e toccheremo il fondo. Benvenuti in Italia! Siamo tutti e sulla stessa barca noi pirati, con le spade di carta. Se il tuo coraggio ha un prezzo quanto pensi che valga, qui non conta chi sei, se non indossi una maschera. Siamo tutti e sulla stessa barca noi pirati, con le spalle di carta. Se il tuo coraggio un pezzo quanto pensi che valga, qui non conta chi sei, se non indossi una maschera. In testa la bandana con la bandiera italiana, armati fino ai denti con coltelli senza lama. Lavori questa terra per tutta la settimana, ma questa terra è fertile di bucce di banana. Quando entri nel mare, quando cerchi di parlare al ristorante, in questo tempo, quando scendi dalle scale, viaggerò per questo mare rapirotto titolare. Non indossi una maschera, sono qui per ascoltare. Siamo tutti e sulla stessa barca noi pirati, con le spalle di carta. Se il tuo coraggio ha un prezzo quanto pensi che valga, qui non conta chi sei, se non indossi una maschera. Siamo tutti e sulla stessa barca noi pirati, con le spalle di carta. Se il tuo coraggio ha un prezzo quanto pensi che valga, qui non conta chi sei, se non indossi una maschera. Siamo tutti e sulla stessa barca noi pirati, con le spalle di carta. Se il tuo coraggio ha un prezzo quanto pensi che valga, qui non conta chi sei, se non indossi una maschera. Oh, siamo tutti la stessa marca sulla stessa barca. Siamo con della stessa marca? Marca? Anche nello stesso bar. Nello stesso bar. Perché quando ci manda in onda fa sempre wow. Questo incipit. Perché c'è un fallo nella sedia. No, perché lui c'ha un fallo nella sedia. Ecco perché non lascia mai la poltrona da DJ. Ecco perché ogni tanto lo vedo ma un po' su. La sedia si alza come lui. Scusate, se bisogna parlare in do con un microfono, dovrebbe fare una cosa alla Kiss, direi, no? Ma io non ho abbastanza fisico. Abbiamo fare una cosa alla Kiss. Più che altro mi mancano i peli Kiss. Sul petto. Non li ho nemmeno io. Poi non c'hai i peli sul petto? No. A poca scena sul viso. Comunque, mentre voi parlate di fatti vostri, ora abbiamo un ospite in studio. Ma io preferisco. Ma lui è tuo amico e sa che. Preferisco sentirvi parlare di peli sul petto. Bravo. Fate. Ecco, facciamo pure. A proposito di. No, parlaci più che altro di questo. Ma sono i peli tutti a quello. Io. Io ce l'ho i peli sul petto. Anche quando non hai il microfono. Ora abbasso i microfoni come a Ballarò. eccolo, dove arrivato, siamo? Dove sei giornalista sportivo. No, allora passo i microfoni come... Che? Come si chiama quello di Badalò? Floris. Floris. Abbassate gli studi, no, abbassate i microfoni studi. Noi si guarda Piroso, non si guarda Floris. Quindi... Piroso, a proposito di Pedi, è sempre la torniamo. No, Piroso o Piro? Piroso. Insomma, fai la domanda, fai la domanda. Se mi fate fare sta domanda... Seria. L'angolo della domanda seria. L'angolo della... Come, attenzione, a un certo punto... adesso una domanda seria. Posso fare questa domanda seria? No. Le è consentito? No, non so più non che c'è domanda. Non ce l'ha la domanda. Non si parla di serietà, proprio non si ce l'ha la domanda seria, è questo. Com'è che passi da un genere a un altro? Perché qual è la molla che ti fa cambiare il genere? Ma o... guarda, tutto davvero divento serio pure io. Cioè, non parlare con me come se fossi Working Vibes, ma sono un settimo dei Working Vibes. Tu come settimo del Working Vibes. Come settimo dei sette nani. Su sette come... nani sono soltanto uno dei nani. Vabbè, come subentra quest'idea di cambiare stile? Proprio perché siamo in sette, quindi ognuno ha i suoi gusti musicali. Quindi un gruppo democratico. Di solito nei gruppi c'è sempre un po' questa... Il leader dittatore. Cantiamo cantiamo quest'altro. Siamo un pugno chiuso. Un pugno chiuso. Fatto da tante dita. Cioè adesso devo dire qualcosa. Non bestemmiare però. No. Non bestemmio mai. Bravo. A parte che capisco che cambiano genere dal reggae, fanno ragamuffin, poi... Però diciamo la radice. Influenze reggae, quindi svariano parecchio, proprio all'interno di questo genere. Però, a parte questo, volevo chiedere una cosa. Il fatto che tu venga da una regione che ultimamente ha molto influenzato un po' anche l'Italia, così, con Nicky Vendola, a livello musicale, anche se sono, diciamo così, pop, Negramaro. Sì. Ma che c'entra Nicky Vendola, scusa? No, vuole dire, lui viene dal Salento. Zio Michele, tipo tutti questi personaggi così importanti della Zio Michele è proprio, diciamo, uno dei nostri punti di riferimento. Sono personaggi importanti della televisione, non della Puglia. Non della Puglia, scusaci. Ci rientra qualcosa? No, perché voi siete pugliesi, però... No, noi non siamo pugliesi, come non siamo pisani, perché la cosa bella è stare in un posto, però venire da posti diversi. Siamo uno di Gaeta, uno di Padova, due di Lucca, due di Pisa e un salentino. E quando siamo nel furgone non si capisce nulla. Sembra Babilonia. Sembra Babilonia. Tra pisani e lucchesi basterebbe già per dargli, insomma, le chiavi del. Però del diciamo caos. Che Pisa è un po'. La città che ci ha trovato. La città che vi ha ospitato. Quanto vi ha influenzato Pisa? Fosse altro perché c'è la possibilità di incontrarci. Quindi. No, comunque Pisa ha sempre avuto, diciamo, col fatto che c'è l'università, comunque un fermento artistico abbastanza, insomma, più rilevante rispetto a Gianluca. Infatti anche Gianluca è venuto a Pisa per sfondare, ma non viene solo Vabbè, dai. Questo la prossima canzone, i cazzotti, però. Allora parliamo della prossima canzone. Come si intitola il prossimo brano? Il prossimo brano è un'altra però dimostrazione di affetto. Ho una sedia col fallo. Ripeto il concetto, perché l'unico modo è quello, avere una sedia col fallo, altrimenti potrebbe con la musica di coso, eh? Una sedia basta, col voglio, fallo non voglio più allora il prossimo brano è un omaggio alla musica funk, funky e tutto quello che ne deriva, un'altra dimostrazione che appunto i Working Vibes non fanno soltanto orecchie, esatto. Però parlano sempre di messaggio e quindi si parla di televisione, di tutto quello che è il falso show. Da quando noi vediamo tanti artisti che magari promuovono un certo tipo di messaggio però magari poi si tirano la bamba fino a tutto quello. Ne vuoi sapere troppo. Che ne pensate di Antonella Clerici? Ci piace. Andate tutti a funk. No, su queste cose qui però si può aprire un dibattito. Non l'abbiamo, sentiamo la musica. No, poi dopo ti prego, per favore, DJ, manda la musica. Cos'è che perché chi sniffa la mamba, cioè, diciamo, è un drogato di serie B rispetto a chi si fa di altre droghe? No, assolutamente. È l'incoerenza il problema. Chi si fa la mamba è un drogato di serie A, cazzo. Con tutte quelle che cose. Cioè, come quello che dice, non lo so, facciamo. Cioè, in televisione spesso si parla di. Ora qua sono serio, però. Torno serio. cioè quando si parla di beneficenza o cose di questo genere, magari uno dice promuovo il mio CD per fare beneficenza o cose di questo genere, però poi magari non è così nella realtà, cioè noi parliamo di incoerenza, quindi se tu comunque sali su un palco e parli ad esempio di droghe leggere e poi io ti vedo con i miei occhi che fai uso di sostanze pesanti, per me sei una persona incoerente, lo dico in un pezzo. Posso, cioè non è una questione di livello, no, vero, tipo di chi... onestà intellettuale, no, si ma dice. Cioè, tipo, cioè, io non fumo per dire leggero... io sono ad esempio un cantante reggae che dovrebbe fumare, però non fumo, per dirti, quindi dimostra, sì, la marijuana, però dico di questo ti dimostra il fatto che gli stereotipi non esistono, capito? No, ma parla di droghe leggere, cioè nel senso che le attacca e dice contro... No, no, dico nel senso che io parlo di... cioè questo pezzo parla dello show business, quindi tutto quello che magari agli occhi di chi ascolta la televisione, di chi guarda la TV, può sembrare una cosa, invece magari è un'altra completamente, cioè nel senso... cioè della falsità che c'è nel mondo dei mass media e anche dello spettacolo. Ascolta, posso farti una domanda? Magari spero che il pezzo insomma ti chiarisca l'idea, okay, di come sto cercando di fare io. Poi... quando promuovi un disco, magari una traccia non va bene, quella traccia la rimandi a settembre o lo promuovi in toto il disco? Lo farei rispondere al pubblico. Bellissima, bella, bella comunque come domanda. Vai, ascoltiamo. Non la scrivo questa. Sì, sì, scrivo. Come si intitola? Ma non li fanno più l'esame a settembre, no? No, non li rifanno, non li rifanno, li rifanno. Rifanno. Come si intitola? Infatti mi hanno rimandato. Show business. Ok. They say there's no business like show business. There's no business, you know. But show business is our business, so we have to get on with the show. Questa è la show, signore e signori, tutti sul palco, i cantanti e gli attori, facciamo gli onori, a voi testimoni, poveri e ricchi, impiegati e dottori. Questa è la show, signore e signori, tutti sul palco, i cantanti e gli attori, facciamo gli onori, a voi testimoni, poveri e ricchi, impiegati e dottori. They say there's no business like show business. There's no business, you know. But show business is our business, so we have to get on with the show. Questo è lo show, tutti amici di Maria, ma dietro il palco lo so, che tirano la bamba e dicono di no. Infila per il bagno come tanti robot, poi pisciano e inquinano il polo show. Dove la vera beneficenza si fa, quando nessuno del pubblico lo sa. Compra il Mercedes e sostieni l'Africa, è l'anno della Adakar. Due reality di falsi filosofi che studiano codici, modelli di vita a pezzi modici da imporre alla gente come barbiturici. Ormai schiavizzati dai cubica 12, cade l'impero e crolla lo show. Nani e ballerine in fuga dai capo, giullari in TV sono parte del flop. Non è un gran casino, è un gran casino. There's no business like show business. There's no business, you know. But show business is our business, so we have to get on with the show. Bring it! Tutti fuori, tutti fuori, tutti fuori, tutti fuori. Sentiamo i fondatori. Tutti fuori, tutti fuori, tutti fuori, tutti fuori. Letterine e calciatori. Tutti fuori, tutti fuori, tutti fuori, tutti fuori. I tronisti e conduttori. Tutti fuori, tutti fuori, tutti fuori, tutti fuori. E spingete i riflettori. They say there's no business like show business. There's no business, you know. But show business is our business, so we have to get on with the show. Questo è lo show, senza sceneggiatura e nemmeno la cultura, che quella fa paura, così la gente dorme più sicura. Cervello stand by, ma la televisione dura, dura. Questo è lo show, non piangi per niente quando qualcuno riabbraccia un parente. Dietro una busta, davanti poi mente, alle spalle di chi soffre da sempre. Questa è la nazione, decine panettoni. Un tempo c'era gas, mantellini e daltonioni. Un tempo andavi al campo per vedere Diego Armando, adesso te lo zoomi con il telecomando. Io nel mio show voglio Bud Spencer e Gigi Robo come amico d'infanzia. Voglio morto, voglio svegliarmi con la voce di Bjork ed essere esposto a Mama New York. They say there's no business like show business. There's no business, you know. But show business is our business, so we have to get on with the show. Bring it! They say there's no business like show business. There's no business, you know. But show business is our business, so we have to get on with the show. Bring it! E eccoci in studio, show Business, tutto lo show business, dalla famosa, dal famoso libro di The Board adesso, eh. Infatti io volevo fare una domanda proprio su questo, sapevi che andavo a cadere lì su... c'è telepatia fra di noi, ci siamo intercettati. The Board, cioè già nel 68 aveva parlato della società dello spettacolo, quindi cioè, sì, prima di quello di cui parli te. Cioè, è meglio sempre ribadirlo, perché altrimenti la gente guarda Maria De Filippi. Però cioè, tipo... ai miei concerti non li voglio quelli che guardano Maria De Filippi, quindi no, almeno li tengo lontani, capito? Ma, diciamo comunque, cioè, citi tipo una Bjork che comunque ha fatto successo grazie no, allo no, devi ascoltarlo meglio però il testo, perché così che mi dici che hai sentito semplicemente il testo, cioè la parola Bjork non vuol dire niente. Io parlo di un essere mutante, cioè nel senso che si sveglia la mattina con la voce di Bjork, quindi immagina se io mi sveglio con la voce di Bjork e sti cazzi, cioè, cioè finalmente cioè, un'altra cosa, cioè nel senso io nel mio show voglio Bud Spencer e Gigro Bo, cioè voglio chi mi difende da tutto, dalla politica, da tutte le cose che ci sono, c'è cioè tipo un Bud Spencer, un Gigro Bo, e poi che sono esempi di show business comunque. No, cioè nel senso di, cioè, di quello che non esiste, che non c'è più, ma non come immagine dello show business, perché Bud Spencer e Gigro Bo sono due immagini. Quella è l'ultima business. Strofa del pezzo, quindi dopo aver detto tutto quello che non va bene, quello che non è buono, te racconti e dici quello che sogni, dici io nel mio show voglio Bud Spencer e Gigro Bo, cioè il mio show, non quello che vedo, okay, quello che vorrei vedere, cioè quindi vorrei ci fossero dei supereroi buoni, cioè tipo come quando eri piccolo e credevi a Bud Spencer che dava le manate in faccia il ai cazzotto cattivi. A martelletto, il famoso cazzotto a martelletto, sì, questa cosa. E poi appunto, ma te vorresti ed essere un esposto mondo comunque con la televisione, però una televisione intelligente, tipo fammi un esempio, mi piacerebbe televisione Fabio Fazio, tutta quella tutta quella che non esiste se non in orari proprio inconsueti, tipo quello di dalle 3 di notte, perché scusa quando mangio mi piacerebbe anche vedere Ghezzi, va benissimo, sì, per dirti, nel senso, però non è possibile perché giustamente il pubblico vuole altro ed è stato educato per quello, insomma, per non pensare. È stato educato per quello. Sì, sì. Perché sei un intellettuale. No, ma quello c'è assolutamente. Lungi da me essere un intellettuale, non voglio esserlo mai. Però sono una persona a cui piacciono le cose che di cultura. Perché no, le cose che mi piacciono. Essere intellettuali, che c'è di male? Che Gianluca è un intellettuale. Gianluca, no, sì, non lo cercavo sappiamo di capire, non è che ora. Vabbè, sono per forza provocatorio. No. Cioè, se lo prendiamo così, diciamo, nel suo significato. Cioè, non è che voglio una televisione parlare, domanda. Diciamo. Sì. Non so se avete fatto tipo. Il business ha cambiato anche il modo di concepire l'intellettuale, secondo me. Ha cambiato anche la musica. Qua siamo in una radio e sapete benissimo che nelle classifiche. E i primi posti sono presi dai talent show, cioè voglio dire non, gente che non ha fatto una gavetta, che non sa cosa vuol dire trovarsi con dei monitor che non suonano per interi anni, concerti, cose, cioè se te non fai un minimo di gavetta poi non, cioè, perché insomma trasformarsi in superstar dal punto di vista mentale è facilissimo, quindi rompere i coglioni a quelli dei locali come rompersi i coglioni da soli è facilissimo, se tu non fai un minimo di gavetta non ti fai il culo, come in tutti i tipi di lavoro, anche la musica deve essere questo. Però cioè, vendono loro sì o no? Sì, sì, magari vendono non anche. C'è una sorta di invidia, cioè, te che hai fatto la gavetta, che magari c'è... Assolutamente. Tu riuscissi magari a fare un video che... Dipende come arrivi alle cose. No, se dovesse accadere è perché c'è qualcosa prima. Cioè nel senso, questo disco ad esempio è prodotto dal chitarrista della banda Bardò, non è un caso, cioè la banda Bardò è un gruppo che pur non essendo passato in... No, la banda Bardò è andata anche in TV recentemente. Sicuramente, infatti non dico che non è passato in TV, però nel diciamo, senso non è passato nei una grandi, popolarità diciamo sotto costruita, traccia però, costruita però negli anni, è quella che piace, cioè fatta appunto da tantissimi tour di centinaia e centinaia di concerti anche magari in un anno semplicemente. Comunque sul discorso della gavetta voglio dire una piccola cosa, sì, è vero che penso che sia fondamentale, ma questo penso in tutte le attività umane, insomma, la gavetta intesa come esperienza, come da vita superare, vissuta, certo, assolutamente sì, però è anche vero che non credo che sia l'unico aspetto di un artista, cioè l'artista deve avere anche estro, deve avere anche capacità di comunicare che non vanno a braccetto con la vita. Sono doti a volte innate o sono sicuramente anche... però chi non ha estro si scoraggia facilmente. No, esatto, ci devono essere entrambi. Se non c'è la gavetta, ci devono essere entrambi. Infatti vorrei citare un gruppo, gli Atman, che hanno fatto tantissima gavetta, però cioè, sono un gruppo rispettabilissimo, gli Atman, che salutiamo, devi assolutamente, che spero siano ospiti prossimamente. Io ti invito ad ascoltare i suoi dischi perché sono molto belli. Cioè, però posso fare una domanda a Massimo? Ma un talent show nel Salento si chiama Silent Show? Bernardo, perché siccome stavamo andando nell'intellettuale, il più intellettuale di tutti, però notate che è stato un quarto d'ora zitto, quindi adesso se resta zitto un quarto d'ora, dici che ci ha pensato per questo stasera. Lui ci ha messo un'ora, è premeditato. Allora, visto che abbiamo citato Björk, ce la fai ascoltare un pochino o pensi che... O te l'ascolti solo tu? Visto che adesso c'hai i capelli come i miei. È vero. Quindi, cioè, per chi non vede alla radio, non ci sono. Somiglia a Björk, cioè chi si sveglia con la voce di Björk. Ti metti la barba e Bernardo. Björkardo. Björkardo. Ma non la mette però. Ma non la mette. Ah, DJ bastardo, veramente. Si è offeso. Questo locale sta diventando sempre più un posto da artisti. Artisti che si incontrano. Abbiamo uno scrittore, due cantanti. Siamo alle 23. Ah, ma siamo in diretta. Io non stavo parlando di soldi come una lucchina. E adesso io faccio l'intellettuale un po' così, un po' snob. Ma questi... ma questi personaggi, ma grazie. Chi... Gianluca, ma chi mi hai portato stasera? Devi portarmi qualcuno così, qualche intellettuale. Ciao, se... ciao, salutiamo. Il più grande intellettuale se ne va. Saluta. Ci lascia soli. Maledetto. Maledetto. Ma questo è più francese. Questo è un po' l'agnelli di noi altri. Oh, ecco, giusto, giusto. Lei l'ha fatto benissimo. Come lo vorresti? Dovresti essere più borghese. Più borghese, così. Qualcosa, no, tesoro. Un po' come Pisapia, che parla che sembra un nonno. No, Pisapia non parla più come... cioè, mi ha rubato la voce, parla come Yogi, ma perché? Sì, non lo ma so. A parte che io parlavo eppure, come... eppure, questo personaggio è assolutamente un anti-leader che è riuscito... a sconfiggere Don Silvio. Don Silvio è arrivato con tutto il suo showbiz, visto che col suo mantello. Eppure questo uomo che sembra un po' così, che ne so, un pensionato che legge il giornale alla biblioteca, così là sul classe. Cosa ne pensi, Gianluca, di questo di questo fenomeno Pisapia, insomma? E chi è Pisapia? Sei svegliato. Ecco, vabbè, lasciamo perdere, cambiamo pagina. Il prossimo brano è l'ultimo brano. Cioè... la canzone, chanson, il prossimo traccia, la prossima il prossimo contributo, la prossima volta che ci metti a giocare la console si litiga. Il prossimo brano, appunto, si intitola com'è? Altro brano, ho fatto sentire audizionata, i brani meno reggae del disco, però no, almeno così l'hai fatto apposta per variare un po'. E vabbè, niente, ma prossimo... perché ti dà fastidio avere questa etichetta reggae? No, assolutamente, io sono proprio fiero, quindi... però in effetti sono concorde con te col fatto che in fondo se prendiamo un gruppo che suona soltanto questa sonorità reggae poi diventa un po' non dico monotono, però troppo scontato. Infatti ricercare un po' ora, o sei Bob Marley per dire che insomma, ti puoi permettere che l'ha fatto per primo, altrimenti rischi un po' di replicare all'infinito, insomma. No, beh, quello si cerca comunque sempre di variare, però l'ho fatto perché comunque almeno sono cose un po' diverse che rimangono pure in me. La cosa, diciamo, il motivo fondamentale per il quale l'abbiamo fatto alla fine è che il nostro pubblico è fatto di gente che non ascolta reggae e basta. Cioè, nel senso, siamo uno, penso, dei pochissimi gruppi italiani di reggae. Ma che penso che anche te non ascolti soltanto punk, certo, all'interno della gente che ci ascolta, che dicono appunto: noi ascoltiamo voi, però poi del reggae. Anche perché, insomma, i vostri testi sono sempre dei testi abbastanza impegnati sotto il profilo anche sociale, civile. Questo, secondo me, è un po' quello che vi differenzia poi, sì, in realtà. Però appunto è facile trovare appunto il metallaro che viene lì e dice: a me il reggae mi fa cagare, però, i working vibes mi piacciono, certo. Quindi allora abbiamo accontentato un po' anche questo tipo di pubblico, questo disco nuovo. Ok, andiamo con l'ultima traccia e poi approfitto per salutare appunto tutto il gruppo, i fiati di Roy Paci e naturalmente tutto il gruppo. Ok, su Facebook ci sei? C'è su Facebook. Puoi mandare la musica? Vai. Mai il tempo non passa e tutti i sogni che avevo li lascio a voi. Mai dimenticherò la mia vita, ma questa non è per noi. Fu nervosamente mentre il cielo cambia faccia, da blu che l'ho lasciato, ora è grigio di minaccia. A stento ogni ricordo cerca di fare breccia tra queste quattro mura e la mia corteccia. Vorrei fare qualcosa per sedare la mia rabbia, ma pesano quintali le ali in questa gabbia. In bilico mi interrogo se tutto questo è giusto. Il ricordo assale il tempo senza lasciarne il gusto. A te che hai visto gli occhi di un Dio che non ti cerca, per te fuggono gli sguardi fuori da questa cella, fuori da questa cella. Mai il tempo non passa e tutti i sogni che avevo li lascio a voi. Mai avrò un altro posto in cui andare, ma tu scrivimi se puoi. Chi non vede oltre, specchi di un'idea già condannata a morte. Spacciare per giustizia la vendetta e le sue orge. Figurati se in terra c'è chi se ne accorge. Di vivere ho temuto e non sarà questo silenzio a render più pulito il sangue che io verso. Un figlio di puttana è già morto quando ha perso la dignità che un lusso come un cielo terzo. Avranno questo corpo mentre gli sfugge l'anima, ma tu non gli concedere la rabbia in una lacrima. Urla squarciagola posando la tua voce su un colpo di pistola. Una vita soltanto non basta più senza la possibilità. Se l'amore è là fuori lotterò di più per una possibilità. Il cielo niente più stelle, ma io guardo lassù. Se c'è la possibilità incatenata questa anima. Questo va bene, Marco. Allora siamo giunti al capolinea. Ma perché al capolinea? Ma quale capolinea? Ma sei tu giunto al capolinea? Cioè, allora, io volevo fare l'entrata vincente e me l'avete abolita. Volevo parlare un attimo di politica, non si può. Cioè, sono stata finora in quarantena per la par condicio e ora non si può nemmeno continuare a andare. Sono d'accordo con Sara. Basta, non vengo più. Vado a fare Aikido anche quando non c'è mai più. Non veniamo più. Cioè okay. Abbiamo una radio tutta nostra. Basta, voglio un programma solo mio, dove parlo soltanto io e infastidisco solo io. Che fai monologo? Suonano anche il telefono. Nostro? Chissà. Pronto? Ecco, è stato. Le mie parole. Ok, ragazzi, io vi saluto e vi auguro una buona nottata. Ci sentiamo, ci vediamo, ci sentiamo dittatore mercoledì maledetto alle 22. Ho la telefonata in corso, mi stai parlando all'orecchio. Non c'è nessuna telefonata, mi dispiace. Ora vi lascio con quest'ultimo brano e una voce femminile copertina. Ma quell'ultimo brano non gli credete, restate Smettila. Con noi le 23:11, sì. Restate con noi, se lui vuole andare via lo mandiamo. È arrivato anche Cidone, quindi è finito tutto. Maledetto, buonanotte. Gianluca, me ne ricorderò per tutta la vita. Niente, vi amo e bene. Già mandatemi. Che ci siamo, volevo fare un ultimo. Sì, di ultima cosa. Sbrigati. Sabato e domenica prossima c'è La Spezia Comics e Fantasy. E chi ci sarà alla Spezia Comics e Fantasy? Zirino! Quindi allora, se volete venire, andate, portate pomodori, sì. Insulti, cose raccapriccianti e. E quindi Bernardo, la trasmissione è finita. In pace. No, volevo dire che il nostro Marco Maltomini, che è l'artista che lanceremo adesso noi nello show business, sta riscuotendo successi a non finire. Devo dire che anche Acidone e il suo Rockabilly Rap sono diventati dei fan. Non te lo ridò più. Ha detto il CD non ce lo dà più. Grazie. Ok, allora buonanotte. In chiusura io metterei proprio la canzone di Marco Maltomini, L'Animale. Ok, allora L'Animale. Salutiamo Papa Massi Working Vibes. Grazie ancora per essere stati con noi. E diamo qualche recapito, non so, internet o qualcosa per trovare. Facebook Working Vibes lo trovate, oppure punto it. Su Facebook, ci vado a pigiare, mi fa schifo. Cosa? Non cosa? Andate a pigiare, mi fa schifo, ma nemmeno mi piace sulla pagina di Rockabilly Rap, mi raccomando. Dislike this page. Ok, allora vi lasciamo con questo. Che vuol dire? St. Forse stronza, cioè io. Indie concert. Indie concert. E di Matteo Mini Marco, un saluto a tutti. A mercoledì prossimo, per favore, smettetela di sovrapporre le vostre voci. Ma certo. Ok, buonanotte a tutti. Mamma mia, guarda, qui è un angolino brutto, Cattagiallo, no, è anche pericoloso. Deve chiudere lui, se no non è contento. Vai, no, chiudi. Puoi anche chiudere tu, chiudi. Basta che chiudi. Guarda però. Che chiamo prossa. Allora, 23:13, siamo in chiusura con la terra di Kaki. Tra poco Rockabilly Rap, non andate via. La prossima volta lo minacciamo. Quando inizi a fare queste cose di dittatura, chiamiamo Crozza. Così io non gli... Dai, Marco Maltomini, L'Animale in chiusura. Vai, ciao mercoledì ciao, prossimo. Ciao, buonanotte, ciao, ciao. Ciao, ciao. Torna la notte scura e torna l'uomo che fa paura. Torna con passi furtivi, lascia le ombre pesare tra i vivi. Che se una donna non farti vedere, se sei un uomo attento al sedere, che se ti trova che passi di là ti prende e ti fa. Torna la notte scura e torna l'uomo che fa paura. Torna vestito di nero al promesso d'oro del cimitero. Torna con passo danzante, lancia intorno se sguardo inquietante. Torna con la luna piena, lancia nel vuoto il sorriso di Iena. Torna la notte scura e torna l'uomo che fa paura. Torna le notti d'estate col suo fardello di teste mozzate e devasciate depravate. Diventa cattivo quando è arrabbiato e se ti trova sulla strada sua, ti fa la mia. E torna l'uomo che fa paura. Torna, torna con la luna piena, con la sua ombra appiccicata alla schiena. Torna, torna per intimorire, e le fanciulle non lascia dormire. Lui entra in casa passando dal tetto, striscia carponi fino al poletto. E ti dice, e ti dice, e ti dice, sì, e ti dice, bimba, bimba, non urlare. Che devo fare, ci devi stare. Bimba, dammi la vita. Bimba, dammi la vita. Torna la notte scura, e torna l'uomo che fa paura. Torna e si fotte in mezzo a città, poi se ne va. Più erba, torna, torna quel maledetto, striscia carponi fino al tuo letto, ti guarda e sorride, ti sveglia e ti dice, bimba, oh bimba, non urlare, sono l'animale, ti devo fare, ci devi stare, io, bimba, dammi la vita. Thank you.